Cesare tradito io ti non volli, che Caio è il suo rival. Bastino i miei ricordi, faccio più cauto in mancamenti e il veda, che tante il mio dovere. Caio qui giunge, Decio, l'alfabesto del nostro imperator, non tristo il volto. Perché tanto mi chiedi? In questo istante molto turbato il vero. E tu che sei al suo fianco ad ognor, l'alta cagione ben ridirmi potrai. Il tuo desio pago render non posso. E perché mai? Perché la fe e l'onor tanto richiede. Anch'io servo fedele di Ottonio sono. Ah, io troppo ti vanti. Quel che sol posso dirti né di renderlo chiaro io son pentito. E chi dirò i dottori? Egli è tradito.